Che malinconia, canterestia l'anima mia quando m'addogno, che le mie orna leste fuoiono oneste, e sempre che osa di del resto nel reste. Miriam, la piccina mia, di vita s'addubba, un tal uscium di chi sta sa vivere e cresce, e a vista rocchio, geniosa, abbrevisce. E io viro, cataleata di vecchio nonno contento, che ad ogni levata di sola mattina addiventa sempre più ranne, e se parancereggio magari l'oriaolo ave l'inganne. Non ce lo può più dire che è una bella bambina, perché è diventata una bella signorina. E mentre idda sbummaco come un ciuro di fuoco, passo l'anno suo e cresce. Passano l'anno me, la mia vita s'arrunchia e fra poco finisce.